ogni pomeriggio alle 6. L'amore è una direzione, non uno stato dell'anima. Simon Way. Musica che nasce dal cuore e che arriva alle stelle. Il cammino di Gigi D'Agostino. Anima ribelle.

Vorrei fare una canzone, anche solo per cantare, anche solo per degna. Prima ti bacia e dopo ti legna. Dai, che famo notte? cammino di Gigi D'Agostino. Ma perché mi piace essere chiaro. Caso Napo, non è che mica giocavo. È quando credi soltanto a metà di ciò che ti dicono. Brillante. È quando sai a quale metà credere. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. vivo appassionatamente la mia vita. Amo i suoi cambiamenti, il suo colore, i suoi movimenti. Saper parlare, vedere, udire, camminare. Avere la musica, la pittura, tutto questo è un miracolo. Tutto questo è gioia. Arthur Rubinstein. Gigi D'Agostino. Un modo nuovo per entrare nel mondo dei balocchi. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino alla mattina. Poi la strada la trovi da te, questa è l'isola che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, questa è l'isola che non c'è. Guardo di là, ma vengo di qua. È il momento della pubblicità. La vita è più bella quando suona la campanella. Listen to me forever.